Capitolo 20. Guerre terminate felicemente contro gli Ammoniti e i Filistei. Tra questi è ucciso un gigante, che aveva 6 dita, in tutto 24. E dopo il giro d'un anno, in quella stagione, nella quale sogliono i re andare alla guerra, Joab raunò l'esercito, e il nerbo dei soldati, e diede il guasto alle terre dei figliuoli di Ammon, e andò innanzi, e assediò Rabba. Or David restò in Gerusalemme, quando Joab espugnò Rabba, e la distrusse. E David prese la corona, che Melciom aveva in capo, e vi trovò il peso di un talento d'oro, e delle gemme di gran pregio, e ne fece un diadema per sé, e fece anche grandissima preda in quella città, e il popolo, che vi era dentro, lo fece uscir fuori, e fece passare sopra di essi delle tregge, e dei carri armati di ferro, e di falci, talmente che restavano trinciati, e stritolati. Lo stesso fece Davide in tutte le città dei figliuoli di Ammon, e tornossene con la sua gente a Gerusalemme. Principiò di poi la guerra a Gazer contro i Filistei, e allora fu che Sobboshai di Usati uccise Safai della stirpe dei Rafaim, e umiliò coloro. Altra guerra vi fu ancora contro i Filistei, nella quale Adeodato figliuolo di Saltus di Betlehem uccise il fratello di Goliat di Get, che aveva un'asta, il legno di cui era come un subbio da tessitori. E un'altra guerra vi fu in Get, dove si trovò un uomo di grandissima statura, che aveva 6 dita, viene a dire, in tutto 24 dita, il quale anch'egli era nato della stirpe di Raffa. Questi bestemmiava Israele, ma Jonathan figliuolo di Samaa, fratello di Davide, lo uccise. Questi sono i figliuoli di Rafa in Get, e perirono per le mani di Davide, e della sua gente. Note, questi sono i figliuoli di Rafa in Get, che perirono ec. Raffaim i figliuoli di Rafa sono in generale i giganti della Palestina, come si è veduto già in molti luoghi.